nevrastenì, dolori al collo, megalomanie, prostata debole. La pubalgia infantile, la tallonite, la tosse cattiva, la pappa buona. Dimenticati, dimenticati, dimenticati, dimenticati. I fischi all'orecchio sono un avvertimento che qualcuno poi ti pensa come un senso di colpa. Io voglio ancora la mia storia d'amore. Io voglio ancora la mia vita. Una canzone in re maggiore. Il morbillo in età adolescenziale, la timidezza con le fanciulle, il rumore della lavastoviglie, il traffico ovattato dalla neve.